Scirocco. Ciao a tutti, no, infatti te lo stavo dicendo, abbassalo, il 5 è troppo alto, devi abbassare parecchio, sei già in distorsione, abbassa, poi ti dico quanto devi scendere. L'altro va benissimo, il più 4 è l'ultima come modulazione, è giusto, non sai? Anche tu Gianni devi abbassare un peluzzino, provati. Bene, questo l'ho messo a 2, 3, 4 ora. Abbassa ancora un pochettino. Guarda un pochino, diciamo tra il 3 e il 4. Così va bene, e i toni come ce li hai? A 0. Prova per curiosità, mettili a metà e poi mi fai passaggio a metà e a 0. Guarda, adesso te li metto a 2, questo è 2, vado a salire, questo è il passaggio a 3, toni a 3, toni a 4, 1, 2, 3, 4, e questo è il tono a metà come hai detto tu. Allora metti il tono a 3 e abbassa un peluzzino il guadagno del microfono. Bene, questa è la posizione che mi hai dato tu, eh. Adesso la radio è più chiara, però forse abbassa un peluzzino, se parli con questo tono di voce non distorci, se alzi appena appena o ti avvicini distorci, prova a abbassare un peluzzino il guadagno del microfono. Ancora, addirittura, caspita, allora lo metto a 3, no ma sicuramente anche perché per via della radio è che ha tutta la... il michilina a manetta, molto sicuramente subentra anche quello. Bene, come va adesso? Va benissimo, adesso sei perfetto. Fai la prova col 4, così ti dico la tonalità cosa cambia da uno all'altro. Sì, va bene, facciamo entrare anche Giulio, dai Giulio, riprendi, poi nel frattempo cambio il microfono. Ok, non c'è problema, potevi cambiare direttamente, non c'è problema. Sì, ma glielo ho detto, Robert, che il più 5 era molto più alto, ce l'aveva 6 ed era molto più alto del 4 che ce l'aveva 8, ti puoi immaginare la differenza, siccome gliel'ha riparato Antonio Riserva sicuramente, e probabilmente gli ha fatto qualche modifica, non lo so, e allora è per quello che quello a 6 è più alto, molto più alto del MB più 4 che è la 8. Strano, no? Non ti sembra, Robè? Sicuramente è stato fatto qualche modifichetta, perché dovrebbe essere più o meno il circuito di amplificazione è preciso, da un lato c'è solo il controllo di tono. Fammi sentire il più 4, Tino. Ecco, questo è il più 4. No, ma più che altro mi interessava perché il più 5, Giulio, ti ripeto, innescava, quindi per togliere l'innesco, oppure toccavo la carcassa e innescava, per togliere l'innesco dovevo appoggiarlo sopra la radio. Come va, Roberto? Sì, va benissimo, però non ho memorizzato, dovresti farlo perché poi ha parlato Giulio, non ho memorizzato. Adesso dimmi, questo è il più 4 e poi mi fa sentire subito il più 5. Scusa un attimo, Gianni. Ah, ok, dai, questo allora, vabbè, c'è anche quello in mezzo alle palline. Questo è più 4, 1, 2, 3, 4, adesso cambio, eh. Vabbè, a me mi piace più di più il più 4, sinceramente parlando mi piace sì, più sì. Il 4. Sì, vabbè, questo invece è il più 5. Guarda, c'è poca differenza da uno all'altro, forse leggermente un po' più di tonalità media ti dà il coso, il più 4, però sono belle tutte e due, da parte mia sono perfette adesso, sono belle, mi piacciono. Chiedi conferma a Giulio e poi a Gianni, sono come livello microfonico, sono identici adesso, non toccare niente, se li vuoi tenere così sei al limite quasi della distorsione, proprio perfetto. Le tonalità sono molto simili, forse il 4 leggermente più naturale risulta, ma stiamo parlando di cose impercettibili. E invece questo qua, vabbè, questo è un altro microfono che ho cambiato, ma questo è un altro, tutta un'altra radio. Questo è molto chiara, però leggermente meno forte dell'altra. Cappa, l'ho capito, vabbè, posso aumentare l'amplificazione, qua non è che appena giusto ho dato un contentino. Sì, no, anche questa è bella, una bella radio. Ok, sentiamo il commento di Gianni, avanti Gianni. E secondo me è un pelino di più, mi piace il più 4, un pelino. Ma sono belli tutti e due, Tino, ti sei sentito? Ti giuro che io? No, adesso vado e prendo il telefono e vedo un po'. Ma io molte volte quando ascolto dal telefono, per dire la verità, non noto queste grandi differenze, perché poi registrate così poco cambiano, a meno che c'è un abisso, allora te ne accorgi. Va bene, questo la lascio così, Robè. Sì, sì, lascialo così. Allora, le registrazioni non vanno bene perché prima di tutto, cioè, ti modifica anche il telefonino, no? Non va bene. Le prove, se vuoi fare quando c'è 5 minuti, me lo dici, ci spostiamo, Tino. Ti rendi conto che anche modificando il guadagno del microfono rispetto a quello dell'apparato o viceversa ti cambia la modulazione, per cui va a trovare un compromesso giusto per dire magari mettere a 5 il Mickey Game dell'apparato e a 3 l'altro o viceversa, perché cambia l'amplificazione anche scambiando il guadagno del microfono, oltre che toccando i tuni. Molte volte magari ti riesce a fare delle regolazioni, magari anziché mettere a manetta il Mickey Game dell'apparato lo metti a 8 e l'altro lo sollevi un pezzettino e vedi che cambiano anche le tonalità. Comunque da parte mia stanno andando bene tutti e due, a livello di intensità microfonica sono identici, uno e l'altro sono uguali, mi immagino che sia la stessa distanza, per cui sto dando per scontato che sia la stessa distanza. La tonalità è un peluzzino diversa da quella del più 4, però stiamo parlando di cose impercettibili che si potrebbero correggere. Ok, vai Gianni. Sì, allora. Oh già, vanno bene tutti e due, l'ho detto io. E adesso la mia l'ho abbassata, va bene? Adesso va bene anche tu, perché poco fa eri leggermente in distorsione già. Kappa. Vabbè, con le tre porta distorce, normale. Vabbè, questo qui è il Cobra, non so come stia uscendo, almeno di radio, dai, voglio sapere come esce di radio. No, sta uscendo benissimo, se rimani con questi livelli va bene, però poco fa è troppo forte, stavi distorcendo, magari uno a basso volume non se ne accorge, però se alzi appena appena il volume del baracchino, vedi, la senti anche a orecchi la distorsione. Io ti stavo guardando, c'avevi il rosso fisso, quando c'è il rosso fisso, il dB fisso a 12 dB di cosa, di dB vuol dire che stai già distorcendo. Tino all'inizio era anche lui fisso, con più 5, poi glielo regolate uguali, adesso stanno andando perfettamente allineati. Ma che da qua sto spostando di un punto, di un attacchetto. Ciao Michele. Ho abbassato di un attacchetto e basta. Avanti Giulio. Ok, riprendo io, allora sì, beh certo. No, anch'io vi ho detto anch'io che tutti e due i microfoni sono abbastanza buoni, no? Non c'è problema. No, ma quello che mi aveva detto è il fatto che le MP4 magari ce l'ho fatto abbassare a 2 o 3 o 4 era, e allora la stessa potenza del radio, alle volte è strano veramente certi microfoni, ma può essere che Antonio gli abbia fatto qualche modifica, sì, sicuramente così. Robe, poi mi dice se la mia la modulazione è giusta o se siamo oltre oppure più bassi. Allora, ti hai sentito parte del tuo passaggio perché ti hanno sovramodulato di brutto, non so se per caso qualcuno non se ne è accorto, tu un peluzzino potresti sollevare, Giulio. C'è anche Michele, vi rilascio a Michele così lo salutate. Avanti Michele. Salutoni Giulio, Roberto Pino. Normalmente lei non ascolti, adesso lo becchi. Perché sono questo Michele, io non l'ho mai sentito. Abita vicino a casa sua. Non li ho mai avuti. Se non sbaglio una la regolazione. Allora, devo dire la mia, io ho ascoltato la registrazione di Gianni. Sinceramente forse ha ragione Gianni. Aspetti, l'avete parlato probabilmente in due, riprendi il discorso perché c'è anche Michele, non so se lo sentite. Avanti di nuovo. Stavo dicendo, non sento che non ho fatto apposta. Aspetta, molto sicuramente. Vabbè, nella radio di Gianni poi era un po' in lontananza, quindi ho dovuto abbassare il baracchino e ascoltare bene nel telefono. C'è una leggera l'altro cambia, credo che sia leggermente più chiaro il più 4, così ho detto mio. No, qua c'è qualcuno che sta facendo di su. Ma io te l'ho detto, è più bello il più 4. Aspetta, ciao Michele, ciao Rubi. L'altro ciao. Siamo solo vicinissimi noi che c'è poi tutta questa differenza. Ma non ascolto, ciao. Più 5, la vede abbastanza, adesso siamo più o meno allo stesso livello, però ripeto ancora una volta, a me piace più 4, è più chiara la modulazione, è più bella, più accettabile secondo me. E vabbè, io ho tirato su, ma quasi una cosa invisibile, adesso va bene? Allora, io non so se stanno sovramodulando, se vi stanno disturbando. Io, Giulio, il discorso tuo non l'ho quasi per niente sentito. Non so se ha parlato Tino sotto di te o Gianni, non ho capito niente io. C'è, forse c'è propagazione, non lo so. Adesso mi sei? Sì che ti sento, ma cacchio, cioè tu se non vuoi più vedi c'è un segnale che ti sta disturbando di brutto. Non so se c'è qualcuno sta mettendo portante. Avanti di nuovo. Vabbè, se c'è la portante cosa ci posso fare? Pazienza. O è la propagazione, perché io lo sento lo stesso, ma quando parli tu, io sento uno che sta parlando di propagazione in una maniera micidiale. Sento più a lui che a te. Però riesco a capire anche quello che dici tu, sarà la propagazione o Robè? Oh, scusate, dai, ne approfitto io, dai. Sì, Robè, propagazione molto alta. Mi devo spostare dalla radio, quindi vi saluto, dai, nel caso se coincide più tardi, dai. Riprendi Robè, comunque anche da parte mia la propagazione è altissima. Vabbè, Giulio qua arriva alto, quindi non è che non lo disturba, però disturba un po' a te. Ok, no, perché ho detto che c'è anche Michele un paio di volte, ha parlato Michele, però forse non l'avete sentito, vi rilancio di nuovo a Michele. Vabbè, c'è propagazione, io saluto tutti, ciao Giulio, Roberto, Tino, Claudio. Vabbè Giulio, diglielo tu, se sta parlando io non lo sento, qua ho segnali a 9, quindi vi saluto, dai, mi devo allontanare. Ciao T, ci sentiamo nel prossimo, va bene, giorno di cuglio. No, qua non arriva questo Michele. Ciao Giulio, ciao Robè, Michele ti saluto ma non ti ascolto. Ciao Giulio, Tino. Io sento molto rumore propagazione, non posso sovramodulato nessuno. Era la propagazione, però ti sentivo chiarissimo lo stesso, dico la verità. C'era un po' di propagazione sottofondo, ma ti sentivo bene. Sì, ma se te lo sto dicendo, quando parlava Roberto avevo la propagazione io a 9:20, ti puoi immaginare, e dunque disturbava a Roberto anche, però capivo quello che diceva Roberto. Io non l'ho detto, però c'era la propagazione che stava arrivando di brutto qua. Chi è questo Michele Gianni? Io non l'ho mai sentito. Lei che è un vicino di casa di Roberto. Dai, è un vicino di casa, io l'ho sentito due volte, dai, no? Un vicino di casa di Roberto, dai, di Giovanni. Ciao Giulio, abbiamo parlato molti anni fa. Tu puoi ricordare di me? Io mi ricordo comunque. Chi è che mi ha chiamato? Ho sentito una piccola modulazione, chi era? La Baldi, no, non mi sente. Vabbè, faccio la ponte io, Gianni. Ho parlato un po' di anni fa. Gianni, Michele, quello di Platamona, l'hai parlato tante volte, idem Giulio, che c'aveva l'antenna e trasmetteva in direttiva verso Sassari diversi anni fa. È vero, dai, io ho capito chi era. Sì, il nome non mi è nuovo, però sì, forse ho capito, sì. Sì, ma adesso qui arriva bassissimo, la propagazione lo sovrasta completamente. Ma è sempre a Platamona, non è Robè, vicino a te. Sì, è vicino a Antonello, dai. Comunque forse lo ricordate come Falco 1. Sì. Allora sì, mi ricordo. Benissimo, ciao Falco 1. E a voi ne abbiamo parlato decine e decine di volte nel passato. Solo che adesso stai arrivando talmente basso, sentiamo 5, 6, non di più. Poi c'è la propagazione qui che mi sta arrivando proprio sparata. E ripeto, sta dando fastidio anche a Roberto quando parla, ti puoi immaginare. Va bene, ciao qualcuno, ben ascoltato dopo tanto tempo. Ti è ritornata la passione per la radio? Ma io non l'ho mai persa Giulio, eh. Comunque mi fa molto piacere averti ascoltato. Ogni tanto ascolto con un po' scanso, non mi è consentito entrare, ho cambiato QTH diverse volte, adesso qua non ce l'ho la Mantova e vado con un auricolare piccola, tra l'altro è un po' caldo, quindi è chiaro che non mi senti, poi c'è molto correne oggi. Beh, riprendi tu Gianni, saluto anche Gianni, non mi sono dimenticato, ciao Gianni, ma non so se mi ascoltate tutti, quindi rimango con ascolto, dai. Vai Roberto. Arrivi Santiago 6 adesso, se non hai mancato di rumori arrivi Santiago 6, Falcuno, ciao, ben sentito, cordialità anche a te. C'è stato un break, lasciamolo entrare un attimo, avanti il break. Mi sembrava Riccardino, era più basso del normale, forse è in macchina, non lo so. Avanti il break su 10. Vabbè dai, niente, vai Giulio, riprenditi. Ok, riprendo io. No, io non ho sentito break, no, assolutamente. Proprio niente di niente. Sì, Falco 1, appunto, anche poc'anzi mentre parlavi è arrivata una bella porzione di propagazione a Santiago 9, tu mi stavi arrivando a Santiago 5, 6 più o meno, sì, che ti puoi immaginare, però diciamo che in parte ho capito il passaggio che hai fatto. Ciao. Ma dipendi, Falco 1. Sì, Giulio, l'hai sentito, ti ha salutato, non ho capito chi però. Non c'è problema, dai, magari in un altro momento quando ci sarà meno QRM riusciremo a parlare meglio. Purtroppo sono un po' in handicap con condizioni di portabilità. Vai, Roberto, fai girare tu. Sì, non ho capito se Giovanni che ha salutato Marco, avanti che ha salutato. E a Marco in esperta. Ho difficoltà a copiare gli altri, soprattutto Giulio. E dove sei tu che stai arrivando a 960? Conat. Ah, e cazzo, gli altri non li sento. Gianni sì, Giulio un po' bassino, sono ero in mezzo ai palazzi. Ah, infatti, ho cazzo, mi sembrava fatto ma segnale a fondo scala. E Giulio l'ha ascoltato a Marco, è in macchina comunque. Sì, l'ho ascoltato. Ciao Marco, come mai non riesci a sentirmi? Beh, se sei dalle parti di Roberto è chiaro che qua arrivi basso dalla macchina, anche perché tu hai la solita antenna magnetica, per cui quella non è mai stata efficientissima e non lo sarà mai l'antenna magnetica. Va bene, avanti Marco, dipendi. Ehi, buonasera a tutti, ero in mezzo ai palazzi, solo Giulio arriva a basso, arrivi bene, adesso sono in una zona aperta. Gianni, sono in via, dove c'è Conat? Via Gramsci? Sì, da 8:30 a 9 qua, arrivi, da 8:30 a 9, no, non è che esci male. Caspita, quell'antenna bisogna che me lo dici che antenna è, me la abito preciso. Però Gianni, prima di prenderla, se la puoi provare in qualsiasi momento, lo sai, andiamo a piazzare il segno dove vuoi, la provi, la metti, se ti piace la prendi, è alta 1,60 e non è piccola piccola. È bellina però, devo risolvere quel problema dell'elettrica, se no me la devi appiazzare, l'accendi sigari non va bene. Dai, fate girare, vai Robè. Ehi, c'era anche Claudio, vediamo se c'è ancora, avanti qua, forse si è spostato. Dove sei? Sei molto vicino comunque a me perché stai arrivando a fondo scala tu, Marco. Certo, via Lancona, è vicino a te, no? Che tavolo di... via Gramsci ha detto, via Gramsci alla Conad. C'è anche Michele, di lì dovresti sentire forte anche a Michele, avanti Michele. Buon Marco, lì riesci a sentirmi? Sì, sì, stavo ascoltando, qualcuno mi pare di avere... Sì, ti ascolto benissimo qua, Un po' di discrezione spesso in macchina, non posso modulare con mic in mano. Francamente andavo a 10, sì, no, ottimo, va bene. Ma stai camminando? Sì, sì, sì, sto rientrando, ho fatto un bel giro panoramico. 9:05 adesso, io quando ti sto arrivando, ti viene bene a guardare? No, no, bene no, però sicuramente da orecchio oltre il 9, dai, riprendi Robè. Ma sei 9:40, se sei in via Paglietti stai andando alla grande. 9:10 quasi. 9:30 adesso. 9:05, sei salito, modulato, 9:10 quasi, stai arrivando bene anche qua. Eia, sei attaccato Marco, vorrei monopolizzare, dai, fate girare che guidando non dovrei nemmeno premere la portante, dai. Stai attento, non ti bilia la contravvenzione, a parte gli incidenti. Gianni, vai di nuovo tu, ma hai cambiato apparato, Gianni? Ho il Cobra sempre, ciò. Ah, ma prima non avevi il Cobra? Sì, sempre col Cobra solo, l'ho cambiato quando c'era Giulio all'inizio, poi adesso lo cambio di nuovo, quindi adesso metto il Magnum. Vabbè, ma non mi hai detto se da radio avevo aumentato, perché l'avevo appena ritoccata. E certo, aumentato, adesso sei perfetto, ma perché avevi abbassato, infatti era sempre chiarissima, bellissima, niente da dire, però eri rispetto agli altri un peluzzino più basso, però la radio era perfetta, nessuna distorsione, adesso va benissimo, sei proprio lampeggiare rosso, per cui vuol dire che stai spingendo abbastanza. Ok, però non sta saltando, vero? Non strappa così, no, perché stamattina l'ho utilizzato il Mike Lee, perché non banda laterale tutta la mattina, praticamente tutta la mattina, un paio d'ore, e ho fatto tantissimi collegamenti, ma ero soprattutto nei canali alti in banda laterale, e dunque ho dato la ritoccatina alla Mike Gain, che in banda laterale non c'è problema. Ok, perfetto Giulio, non toccare niente, da parte mia è tutto a posto. Ok, facciamo riprendere prima Michele e poi passerà il mic all'amico Marco, se c'è ancora. Avanti Michele. Sì, ecco, questi Marco mi stava arrivando molto forte poco fa, arrivava anche 10-15 certi punti, ha detto che era vicino al bullo. Ti voglio chiedere una cosa, vabbè, dato che anche tu c'è quel ricevitorino che si attacca alla pianiera USB e che ha ascoltato quella radio olandese che trasmette su internet, hai visto quanto riceve bene quella radio? E hai visto che antenna usa? Usa una mini whip con antenna amplificata, il circuito sarà se no 10 cm, ma riceve solo spettro HF e segnali da paura, non ti sembra una cosa esagerata? Vai Roberto, poi fai girare tutto. Aspetta, io con la radio olandese io la ricevo senza utilizzare la pennina, se ne vai sull'applicazione e la prende, c'ha una stazione discreta, diciamo, ad Amsterdam in Olanda. Poi adesso mi hanno dato un po' di programmi spettacolari, e Claudio Damuro, lui è molto addentrato in materia, mi ha messo il software senza modificare la pennina e faccio tutto, addirittura sono arrivato, neanche lui lo sapeva, perché mi ha dato il padre di Riccardino, mi ha regalato una pennina recente, addirittura arriva a 11 giga questa cosa, una cosa mai vista. 11 giga solo la pennina, senza trasversa. Arriva a 11 giga col programma, no, ma c'è un software spagnolo, sono Sharp SDR e poi me ne ha messo altri due, ci sono due edizioni, c'è la vecchia edizione e la nuova, e poi ce ne sono altri due che non mi ricordo come si chiama, adesso non ti posso dire perché non c'ho il computer a portata di mano, uno fa solo gli HF, e dopodiché l'altro che arriva fino a su, tutti i tipi di codifiche possibili e immaginabili, è un bel programma, proprio un sacco di funzioni, addirittura esce di testa perché c'ha un sacco di regolare di enfasi, puoi regolare stretto, larga, larghezza di guarda, è una cosa spaventosa, quello che c'ha quel programma lì, senza modificare la pennina, perché la pennina per salire su dovevi fare una microsaldatura eccetera, lui ha detto ne ho rovinato una per cui non la tocco più, e ne ha fatto questo spagnolo, gli ha dato questo, è riuscito a scaricarsi questo programma, fa tutti i tipi di emissioni e di codifiche, anche cose un po' particolari. Ok, vediamo di far riprendere a Marco se c'è ancora, e poi il discorso magari si continua dopo. Avanti Marco, Marco l'hanno arrestato, vai Gianni. Via Marco, sei rientrato? Dove sei tu? Più 15 questo passaggio, per cui sta andando bene anche da lì. Giulio riprendi. Ok, vabbè, ma sì, già è arrivato a casa Marco, sì, adesso la propagazione sta incominciando a dare fastidio di nuovo, porca miseria, ma quando è così forte la propagazione è anche odiosa, è bella perché riesce a fare dei bei collegamenti, ma quando è così forte copre addirittura il questione locale, va bene, dai, comunque. Va bene lo stesso, sopportiamo anche quello, non c'è problema. Però io vi saluto, sono 8:10 e io vi saluto. Ci sentiamo probabilmente o più tardi o perlomeno domani direttamente. Ciao Roberto, grazie per la chiacchierata, ciao Foco 1, fatevi sentire e attrezzati un attimino meglio con l'antenna. Ciao Gianni, ciao Marco, saluto a tutti e ringraziamenti a tutti per il QSO, alla prossima, io ascolto il finalino e dopodiché chiudo. Avanti Gianni per il finalino. Ciao Giulio, ci sentiamo. Buon QRT e buona carica quando la fai, dai. Quando la fai. Avanti Roberto. Ciao Giulio, ben sentito, sempre un piacere, come al solito, ok, e buona carica, buon tutto, se coincide ci sentiamo in altre situazioni. Avanti Michele per Giulio e poi come si chiama? Marco, se c'è ancora, vai Michele. Sì, riprendo io, Marco non lo sentivo più, non so se sia arrivato, non lo sentivo più. Ciao Giulio, ha fatto piacere riascoltarti, comunque più che altro salutati, perché comunque ti ascolto sempre, ogni tanto la notte ti ascolto il camerino e ti ascolto, quindi la passione non è mai tramontata, diciamo che non c'ho le antenne qua, quindi il problema è tutto qui. Va bene, quindi vabbè, piacerebbe parlare solo con la casa, io sento quella ne ho provato anch'io un bel po', vabbè, ne ho provato diversi, ce ne sono tanti, ma ti devi appentare per la qualifica dell'effetto stellato, ma non è che mi interessi molto, per sempre per la digitale. È bello ascoltare tutto, vedere lo spettro di 5-10 mega che è stato insieme. Questo arriva fino a 2004, non di più. Poi non bisogna difficile, perché secondo dove le broadcast le azzerano, fanno abbattimento perché non hanno filtri. Se ti lancio a te, allora, io ne avevo una acquistata nel 2009 che si poteva modificare per vedere la TV, ma per la uscita digitale terrestre. Abbiamo provato a farla funzionare e non c'è stato verso, non riusciva a interfacciarla. L'altro giorno è venuto il padre di Riccardo da me e mi ha regalato, te la regalo a me, diciamo, oh, preferisco di comprare, te la regalo. Mi ha dato questa qua, addirittura c'ha il DAB, si chiama DVB terrestre, più DAB, più FM, più SDR, e questa è USB 2.0, il modello di questa cosa, è nera, un po' più grande del normale, e con questa qua sono rimasto a bocca aperta, sono arrivato sino a quasi 1 GHz, 10.999 GHz, con lo stesso programma che utilizzava, come si chiama, Claudio, con un'altra pennina molto più vecchia di questa, creata questo radioamatore calabrese, e quella lì arrivava ai 2400-2700 MHz. A 10.000 c'è 7.000, però tutti quanti usano, cosa usano? Ascoltano per l'antenna TV, anche se non c'è neanche bisogno di andare a metà, direttamente su web, ci sono queste persone che si arrivano anche in realtà, non devono seguire nulla, sto ferma, tieni presente che non saprai, i satelliti geostazionali sono a 36.000 km, quindi la voce si fa 70.000 km. Sì, tutto diverso, ma questa qua è diversa dalle altre, ti ripeto, io ne ho visto diverse, questa addirittura c'ha dei dissipatori, cioè c'ha dei canali di raffreddamento, deve essere costruita per altre cose, io non lo so, per specifica, c'ha l'ingresso di antenna come la TV, come quella che c'è dalla televisione, quella che va solo digitale terrestre, mentre quella di cosa c'ha un attacco molto, ma molto tipo uno spillo, dai, una cosa così, anche difficile da utilizzare, io le ho fatto l'adattatore e l'ho collegata al PL direttamente, c'è uno spezzone di RG58 con l'adattatore da attacco TV, diciamo, attacco TV da pannello, e l'ho trasformato in un attacco PL e l'ho attaccata alla cosa, al ricevitore, però all'inizio stava andando tutto bene, poi ho visto c'erano dei problemi, probabilmente o stava saturando, non lo so, perché stava, mi sono scomparsi i segnali di corpo, non ho capito cosa è successo. Allora loro hanno l'equalizzare bypassando tutto, e questa qui per esempio di bypassare tutto ti ascolti da 24 in più, altrimenti è automatico e poi anche manuale, lo devi regolare in base al treanco di quella funzionale, la corrente, devi aumentare e diminuire, dove si trova, ma sicuramente lo trova qualche software per la poi regolare. Altrimenti non senti nulla, oppure senti troppo, satura, oppure ti porta dentro il sacco della bestia. Poi dipende anche a te. Dai, ma è forte questo qua, ok, scusa un attimo, lo facciamo riprendere a Gianni, avanti Gianni, poi oggi Gianni, Flavio mi ha fatto un regalo, sì. Vabbè regalo, non lo so, forse lasciamo perdere, un'antenna magnetica, pensavo fosse, anche io pensavo fosse soltanto un preamplificatore antenna, invece è un'antenna magnetica, c'è un'antennina sua, si può usare all'interno con un regolatore di guadagno, c'ha diverse bande, parte dalle HF sino ai 40 MHz e dalla MFG. Ah, ho capito, è un'antenna attiva. Allora, esistono delle antenne attive che sono più piccole di quella lì, che si alimentano direttamente dal chiavetta, sono come regole gli arriva la tensione, sono questi tipi che è stato molto indicato. E queste antenne qui, che sono praticamente un circuito stampato su basse ditte, ricevono da 0 a 30, ovviamente se li metti bene su un palo, se li metti dentro casa ricevono di meno. Però non hanno, cioè sono delle una bottiglia di birra come dimensione, piccola. E il bello di queste antenne è che ricevono anche su 10 kHz, su 20 kHz, frequenze ultra basse, dove ci vogliono antenne chilometriche, e tu con questi scherzi della natura di antenna porti dentro dei segnali paurosi, tanto è vero che c'è una radio RTL in frequenza che ne utilizza una. E tu puoi sentire trasmissioni digitali che ascoltano la marina americana, i sommergibili russi, quelli italiani, che sono intorno ai 60 kHz. E con questa antenna da niente porta dentro segnali chiarissimi in fondo scala. Si chiama Mini Whip. Proprio se cerchi così Mini Whip la trovi anche in rete, ci sono i progetti di vari radioamatori. Non se ne trovano in vendita, c'è qualche radioamatore in Italia che le produce e le vende, ma sono, io non so. Sono rimasto a bocca aperta perché non ci capisco, cioè non c'è il classico di polo, direttore, riflettore, è un circuito stampato con componenti e 10 cm di roba. Sì, sì, l'ho sentito parlare. No, questa che sto dicendo io è, cioè, presente le dimensioni tipo un accordatore tipo quelli della ZG è nero, c'ha un'antennina a filo allungabile e la puoi utilizzare con questa antennina, è un'antenna attiva, diciamo, con un preamplificatore alimentato a 9 volt, c'è la possibilità di mettere l'alimentatore esterno oppure la batteria a 9 volt e fa da 0 a 40. Ho provato poco fa per vedere come migliorava il segnale, ti posso dire che migliora un pochettino qua, che non porta troppo rumore, diciamo, va più che bene. Poi stavo parlando proprio l'altro giorno di antenne con salvatore maestrale e lì i radioamatori hanno tutte antenne attive, quelle circolari, non so se le hai mai viste, con le nuove generazioni hanno dei guadagni spaventosi, poco rumore, li accordano direttamente e tirano, che è una meraviglia. Ma quelle non sono attive, tu forse parlano delle loop magnetiche, quelle lì sono antenne particolari ma non sono attive, l'alimentazione ce l'hanno perché hanno un accordatore. Praticamente sono tre di banda come risuona, quindi come si sposti a 40 metri, sposti di pochi chilo si deve sempre accordare, sempre. E hanno un mio accordatore, un variabile, nel circuito dell'antenna, per quello che c'è vicino, ma non è attiva. Luca, no, ho detto una fesseria, attiva è questa che c'ho io, magnetica, antenna magnetica, ho detto una fesseria. No, questa che mi ha dato Claudio non l'ho provato da solo, perché non si può utilizzare, infatti senti su internet, cercati questa MFG, 10-20C attive antenna e ci sono, ne parlano più che bene, anche i radioamatori ho visto, diciamo, per uso interno, diciamo, per situazioni particolari funziona discretamente. Dai. Ma non l'ho mai provata, mai visto da molti anni quell'antenna, la conosco, la volevo scattare. Sì, sono delle antenne, sono dei compromessi, vai col ballo un 9-1, solo da 13 metri di filo, che ci puoi anche parlare perché rimane basso, ma porta dentro tutta la gamma HF. Ok, vediamo se, mi dispiace che abbiamo un po' monopolizzato, se è rientrato Gianni, avanti Gianni. Adesso meno male gli spagnoli si sono un po' abbassati, più che spagnoli erano tedeschi, arrivavano 9-20, cioè sparavano potenze, segnali allucinanti, le potenze non lo so, ma erano un FM per cui spingevano forte. Vediamo sul 10 che è rimasto, se c'è qualcuno, compagnia di Roberto da questa parte, Michele dall'altra, avanti chi vuole entrare. Tu stai utilizzando il 14, Michele, se non sbaglio. Il 14 stai utilizzando in questo momento. Sì. No, bella, sempre una bellissima radio, diciamo, non per vantare quella serie di radio, ma sono eccellenti come modulazione e inconfondibili pure. Ma io c'ho anche l'85 che mi piace più di questa, però si è danneggiato purtroppo. Quella era veramente un canale spadino, canale che Scandelli. Scandelli. Piccolino dalla della 57, 9 o 7, con quella Y. Che faccio io con quella flash? Ah, se c'è qualcuno che voleva entrare, allora di chi è? Scappa, dai, Robè, io non voglio fare male tu cazzo, ma mi si è rotto il microfono e quindi sono dovuto andare a metterlo a posto, dai. Quindi mi sono allontanato per quello, non me ne vogliate. Adesso vado e faccio QRT, dai. Come va questo microfono? Guarda, 1, 2, 3, prova. È tutto innescato già, non so cosa stavi toccando. Adesso l'ultimo pezzo del passaggio già si è andato bene, ma prima era tutto rumori strani. Non stavo toccando niente, era la cassa che c'è, ho attaccato e c'è il parlascolta, per quello che a volte fischia. Se sei troppo vicino ti fischia, guarda così. Prendiamo il telefono Massimo. Vabbè dai, vi saluto tutti cordialmente, dai, QRT per me. Ciao, ciao Michele, se mi ascolta, Marco, tutti quelli che ci sono, dai, saluto tutti cordialmente, avanti Michele. Ciao già, io ti sento benissimo, molto chiaro, stai scendo bene anche con questo microfono. Proprio quando è fatto il segnale che si valuta se la radio è buona o no, riesci sicuramente a modulare bene il segnale che ti ricordi, vedete che ti ascolto basso, ma comunque se 8-9 arrivi qua, e che c'è un po' di radio. Ma questo apparecchio dovrebbe arrivare di più, dai. Questo qua è il Magnum 980. Sì, non mi senti, mi alzo quella modulata. Ma tu che antenna stai usando? L'antenna di Pirimicchio. Magnetica, veicolare sul termosifone. Vergognoso. Per quello è. Kawasaki, come ti sta arrivando con questo apparecchio? Guarda, 1, 2, 3, prova. Sì, sempre 9.30, dato del 5, ma sei provato, sai? No, sto cambiando per farli girare tutti, dai. Tu sei come quello che prova il melone. Mi diverto, cambio. Attenzione, Tonino Kawasaki, se ascolti il doppio room, cambia, cambia. Cambio. Vabbè dai, faccio QRT che vado a fare da mangiare al cane e poi mangio anch'io, dai, se mi tocca. Dai, ci sentiamo, dai, QRT per me, ciao. Ciao, ciao Michele, ciao a tutti gli amici, dai, ci sentiamo alle prossime. Ciao Gianni, ci sentiamo. Ciao anche Tonino Kawasaki, ben sentito dopo tanti anni, ma non so se tu riesci a ascoltarlo, probabilmente no. Ciao Tonino, ciao Gianni, ciao Michele, qua arrivi bene da casa, ho la voce afana, sì, 9 più 5. Chi? Michele. Ah, che avevo sta dicendo a me? No, tu sei abbastanza a fondo scala già. Comunque ricordati, se proprio vuoi un'antenna già veicolare, vai oltre il metro, cioè non scendere mai sotto il metro, dal metro in su, possibilmente oltre, se no già la resa, sai, con la massa fittizia è un po' così così, però dopo tutto non ho mai voluto cambiare già, perché se sei in zone aperte comunque va bene. Poi se vuoi c'era aiutino, già lo sai, no? Ma io ne ho visto una, la GBC, che è nera, è bellissima, cazzo, è proprio adeguata alla macchina mia. È nera. Però ne vuoi troppo, cazzo. E poi mi mandi il modello, dai, così me la studio. Ma Roberto c'è ancora, è andato via. PC4 si chiama. Ah, forse la conosco, sì, sì. Comunque lo sapete, io ero premesso, ero in paese a dare un'occhiata, c'era una cosa da risolvere, no? A parte dell'andata c'era quasi nessuno. Allora, quando ero a Scala di Ciocca, nel punto più alto dove c'è l'ufficio, ma dove c'è quella scuola, gli spagnoli erano talmente forti che coprivano Giulio, coprivano te, sentivo solo Roberto. E quando è entrato Claudio che diceva che sentiva disturbi, coprivano, cioè da quel punto alto coprivano tutti tranne Roberto, poche parole. E mi fa piacere, vuol dire che arrivavano forti. È troppo forti però, e mi pare erano o in FM o in banda laterale. Io sentivo un abolotto di fondo che non hai idea, che non hai idea. Va bene, dai, buon proseguimento. Già, fai quello che devi fare. e ci sentiamo. Adesso mi rilasso un po'. Comunque vai a guardarla, DC4 si chiama. Midland, giusto? Eia. Ma perché il GBC è ancora aperta? Sì, non so se abbia cambiato il nome, se il nome è ancora GBC sullo scontrino, oppure c'era un periodo che aveva cambiato nome, come se si fosse in un certo senso staccata la GBC, però i prodotti sono sempre quelli, Michele. Online o quella di Sassari? Perché io ho parlato di quella di Sassari, che mi sa che è chiusa. No, Gianni, GBC è aperta, sì? Sì, è aperta. No, io sono passato un bel di volte, era sempre chiusa, ma anche prima di Covid era chiusa, infatti l'aveva chiuso per sempre. E hanno preferito chiudere chi magari aveva l'imposizione di chiudere. Molti hanno una paura folle di questo virus farlocco, dai, non è tanto farlocco, però l'hanno ingrandita troppo la cosa, dai. Non è così, no Marco, ci sono stati dei casi in continente, già l'hai visto. Sì, lo so, ma sai, c'erano persone già terminali per altre patologie, dice in più avevano il coronavirus, causa della morte è coronavirus, e magari uno era terminale tumorale, lascia perdere, c'è una mafia dietro anche lì, tutto per favorire le cause farmaceutiche, tutto soldi, vai Michè. Il business è sempre ragione, ma non è solo quello, là. Già c'era un po' di pericolo, già c'era la cagarella all'inizio, la voglia, cavagava. Scusa un attimo, casa, questa casa mi innesca, Ci sono andati a temerlo, e comunque già sono stati male anche i giovani. Comunque già io ho paura, non molto, almeno finché non mi viene non ho paura. Mi dispiacerebbe per mamma se mi dovesse venire e lasciare mamma, ma per il resto tanto mi già lo sai che vabbè, non insomma la mia vita è un po' così, sempre in paranoia. Bene, Gianni, comunque la mia si chiama Midland ML145 con la base magnetica da 12, si chiama Kit 007, no? All'epoca, ti sto parlando del 2011, l'avevo pagata da Tonino tipo 45 euro tutto, cioè antenna e base magnetica da 12. Quello vuole solo 45 euro solo per l'antenna, adesso non sto... 45 euro solo per l'antenna vuole. Ma sono passati 9 anni, tutto aumenta, ogni anno che passa aumenta. Se tu vai a comprare questa antenna che ho io adesso, minimo te ne sparerà 60, minimo. Eia, quella più alta costa 60. Aspetta che faccio una prova, sta con la cassona. Scusi il nome, compro. Eia, avete parlato in due un attimino, dimmi Michè, ripeti il passaggio. Mi sto allontanando, mi devo allontanare, ci sentiamo dopo, casomai. Salutami Gianni che non mi ascolta. Eia, ok Michè, dai, buon proseguimento. Falco 1, ma eri il Falco 1 di una volta, sì? Sì, boh. Allora, ricordo Falco 1 negli anni 80, ma non so se appunto sia lo stesso, perché poi certi nominativi sono stati riassorbiti, magari se spariva uno. Va bene, dai. Buon proseguimento di serata, buon tutto e ci sentiamo. Marcuri, dal 78. E allora sei più vecchio di me. Io sono entrato nell'84. Nell'estate dell'84 avevo 13 anni. Non potevo manco modulare, quindi. Per dire. Hola. Ah, io sono entrato nel 78, avevo 10 anni e avevo un portatile della Midland, 3 canali, ne avevo uno e poi gli ho portato altri 2 canali, poi sono passato all'MS200 dopo qualche anno. Midland 3 canali, ma non è che era quello grigio tipo radiotelefono militare, aveva un aspetto molto accattivante, mi pare si chiamasse Great CTE, che poi CTE era Midland. No, Midland è basta. Midland era di acciaio, la sera acciaio grigio tutto a puntini. Hola, 1, 2, 3, prova. C'aveva l'antenna telescopica, aveva 3 canali con la, come si chiama, la manopolina che faceva 3 scatti, però 2 erano da quartare, quindi c'era solo i canali 11. Yeah, pure il mio. Ok, Michele, dai. Gianni, adesso ti faccio venire una curiosità, Gianni. Michele, quanto ti arriva laggiù? Prova, Michele. Vai già, 1, 2, 3. Aspetta che devo mettere la lucetta che non si vede nulla anch'io. Santiago 5, dai. Se ne arrivi 8. 8 ti dico di picco. Prova a fare in FM se ne senti meglio. Massimo mi arriva, dai. A volte 5, a volte di meno, anche meno. Non ti sentirà, però qua sta arrivando uno spagnolo, un tedesco, Santiago 9 FM, cioè lui prende più propagazione di me e quindi ti coprono. Tu sei intorno a 5, mi è parso di aver capito, non, cioè non ti può sentire, sono segnali più alti. Guarda, è un macello da un po' di tempo che sta fatto, prima niente, adesso è arrivata tutto in un colpo la propagazione. Insomma, quando la vuoi la propagazione non c'è, quando non la vuoi c'è. Sì, stamattina mi sono fatta a Beffa, Monza, Pavia, insomma ne ho fatto un bel collegamento. Adesso come sto arrivando, Marco? No. Beh, sempre bene. Perché stavo innescando la cassa esterna, ho messo la cassa esterna, si sente da Dio. Ma è un rientro RF o è l'autoascolto? No, è un rientro RF. E capita, può capitare, sì, soprattutto magari se non è schermata bene, può capitare. Michele, dimmi, dicevi? No, forse non era lui. È una cozzaglia di segnali, sì, oggi. Adesso mi guardo l'antenna, dai. Ciao già, buon tutto allora, dai. Ho capito dove andare da mangiare al cane. Ehi, dai, devo mangiare anch'io. Non ho mangiato, Ok, dai, ci sentiamo, Marco, alle prossime. Ehi, alla prossima qua. Ciao. Ok, FM. Cappasole, Luterejo. È l'olocausto. Aspetta, il tedesco è 9-5.